America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. First of all, our intelligence community assesses that the Assad regime has used chemical weapons. Ben Rhodes, uno dei responsabili del Consiglio per la Sicurezza Nazionale del presidente Barack Obama, l'amministrazione Obama ha denunciato la Siria per aver varcato la cosiddetta linea rossa, per aver cioè usato delle armi chimiche nella guerra civile in Siria. So the Assad regime should know that its actions have already led us to increase both the scope and scale of the assistance that we're providing to the opposition. Di nuovo Rhodes che parla, il messaggio, dovremo intensificare l'appoggio militare, le forniture militari all'opposizione rispetto ai mesi passati e daremo un maggiore appoggio politico. Da oggi, dunque, l'America è pronta a una escalation in uno dei momenti più delicati per la resistenza siriana e soprattutto qua pochi giorni dal vertice del G8, gli otto grandi si riuniranno in Irlanda del Nord, ma inevitabilmente questo sviluppo sulla notizia siriana ha preso il sopravvento. And we are going to make decisions that are consistent with our own national interest, which is achieving a negotiated political settlement that establishes an authority that can provide stability and administer state institutions in Syria. Ecco, di nuovo Rhodes, come avete sentito, ha fatto un riferimento al movimento di Hezbollah, un movimento militare, politico, di estrazione sciita, molto, molto legato all'Iran. La Siria era l'anello di congiunzione tra le forniture militari in arrivo dall'Iran e destinate a Hezbollah. Hezbollah doveva essere la spina nel fianco di Israele, doveva essere pronta a intervenire contro Gerusalemme nel momento in cui ci fosse stata un'escalation, per esempio, da parte di Israele contro l'Iran che sta sviluppando la bomba atomica. Il quadro è molto complesso, l'intreccio è delicatissimo. Questi sviluppi più recenti hanno portato ad un colpo di scena. Quale? Hezbollah improvvisamente ha deciso di lasciare il suo presidio libanese e di trasferire una buona parte delle sue forze in Siria per unirsi alle forze regolari siriane e attaccare le forze ribelli, soprattutto nella città di Qusair, una delle roccaforti dei ribelli e una cittadina chiave dal punto di vista strategico per questa guerra civile, e sono riusciti a conquistarla. Ecco, pressioni fortissime ovviamente su Barack Obama da ogni parte, soprattutto dal senatore John McCain. Pensate, il fiero vecchio John McCain, reduce dalle guerre in Vietnam, prigioniero di guerra dei Vietcong, si è recato a Qusair quando la città era ancora pronta a resistere per dare questo appoggio morale ai ribelli. È tornato, ha chiesto che l'amministrazione facesse qualcosa, una dimostrazione concreta dell'impegno americano per aiutare i ribelli. America 24. Da questo quadro facciamo un balzo al G8. Il G8 inizierà lunedì mattina, il presidente americano si recherà a Belfast. Che cosa succederà al G8? Restiamo per ora fermi alla questione siriana. La proposta americana è una proposta politica, una proposta di raccogliere tutti attorno a un tavolo e di avere immediatamente, questo Rhodes lo ha confermato ieri, le dimissioni, l'esilio di Assad per poi dare vita a un nuovo governo che rappresenti da una parte la continuità con rappresentanti del vecchio governo di Assad, dall'altra includa degli esponenti dei ribelli. I ribelli però resistono, sono molto acidi davanti a quello che è successo negli ultimi tempi, nelle ultime settimane, soprattutto davanti a queste rivelazioni dell'utilizzo di armi chimiche. L'amministrazione Obama potrebbe anche chiedere una mozione di no-fly zone alle Nazioni Unite. Finora questa risoluzione non è mai passata. Toccherà alla Russia giocare il ruolo chiave di decision maker. Sappiamo che il rapporto tra Barack Obama e Vladimir Putin, insomma, non è dei migliori, quindi questo G8, che sembrava a un certo punto essere così più un incontro in cui si sarebbe chiacchierato molto e concluso poco, è diventato improvvisamente rovente. Economic growth in the first quarter was supported by continuing expansion in demand by US households and businesses. Ma c'è un argomento che per noi era molto interessante, altrettanto centrale, quello della crescita economica. Barack Obama arriva in Europa, chiede all'Europa di darsi una mossa, di cercare di procedere lungo la strada del della liquidità per poter agevolare la crescita. E gli incontri tuttavia saranno dominati dalla voce fuoricampo di Ben Bernanke. Martedì e mercoledì ci saranno infatti gli incontri del Federal Open Market Committee, il comitato monetario della Federal Reserve. L'idea è che la Banca Centrale Americana cominci a tirare i remi in barca dal punto di vista degli interventi con acquisti per 80 miliardi di dollari al mese di bond americani. Ecco, questo ha già creato qualche turbolenza sul mercato, abbiamo visto delle perdite, il Dow Jones è sceso sotto quota 15.000, il Giappone addirittura in bear market, è al di sotto del 20% rispetto ai massimi. Insomma, l'economia domina, la richiesta di Obama è: noi abbiamo fatto la nostra parte, l'economia americana cresce, a questo punto stiamo imboccando l'exit strategy, Europa fai la tua parte, un appello che porterà poi qualche giorno dopo in Germania al vertice con la Merkel. Infine, terzo argomento, quello della tutela della privacy. Dopo le recenti rivelazioni, le attività illegali di Snowden, l'ex agente della CIA, che ha rivelato come il governo americano sia riuscito a entrare in possesso di milioni e milioni di dati sul traffico telefonico americano. Un G8, insomma, come dicevo, rovente, interessante, probabilmente non risolutivo, ma sicuramente fondamentale per gli sviluppi della geopolitica nei prossimi mesi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Bob Dylan ha annunciato un tour inglese per il prossimo novembre. Insomma, Bob Dylan è stato anche un cantante della pace. Speriamo che da questo G8 che è in arrivo ci siano delle soluzioni. Vi proponiamo una sua canzone ottimistica, Knocking on Heaven's Door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento in Irlanda lunedì. Goodbye and get going. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi ha presentato America 24.